Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Buonasera a tutti, benvenuti nelle frequenze di Blu Radio Veneto. Io sono Flavio Bilato, con me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. E con Maurizio può iniziare anche l'appuntamento con Blu Time Live, l'appuntamento appunto con la musica libera, la musica acustica, la musica bella che si fa sentire, ed è sempre un piacere ospitare sempre artisti nuovi e rampanti che vogliono proporre assolutamente la loro musica, e noi con loro vogliamo proporla agli ascoltatori. Quindi già in questa serata di martedì 30 aprile del 2013, mentre scattano da poco le 21 e 4 minuti primi, diamo il benvenuto a un gruppo che arriva dal milanese, quindi salutiamo gli Alzamantes, eccoli qua, buonasera ragazzi. Ciao. Buonasera, ciao. Ciao a tutti. Allora, Alzamantes, per godersi una serata all'insegna della musica folk, quindi salutiamo tutti i protagonisti di questa serata, quindi Maddalena, voce e violino di Alzamantes, poi ancora Dario alla fisarmonica, buonasera Dario. Buonasera, buonasera. E poi ancora Stefano al cajon, eccolo. Ciao. Qua, buonasera Stefano. E poi ancora Andrea alla chitarra. Ciao. E Alessandro al basso, questa sera. Ciao. Non basso munito, però insomma parteciperà anche lui con il cuore quando si suona, e poi naturalmente con la voce quando si parlerà della musica di Alzamantes. Allora, subito una domanda si faranno gli amici del Veneto che stanno ascoltando, non solo perché naturalmente apriamo le nostre frequenze anche alla versione streaming audio, quindi chiediamo subito a chi vorrà rispondere. Abbiamo scelto Maddalena, chissà perché, forse è l'unico, diciamo, personaggio femminile in questa serata. Comunque sei ben attorniata, voglio dire. Benissimo, sì, assolutamente sì. Allora ti chiedo subito, in principio di trasmissione, Maddalena, una cosa che forse in Lombardia non ti hanno mai chiesto, però dalle nostre parti è doveroso: il perché del nome Alzamantes. Ci siamo un po' documentati, sì. Abbiamo capito che genere di lavoro poteva essere, però ci fa sempre piacere risentire questo vocabolo, innanzitutto perché l'avete preso, e poi il vero e proprio significato. Ma in realtà ce lo chiedono sempre anche a casa bene. Nostra, quindi non è... Alzamantes significa alzamantici, e il nome l'ha proposto Dario, sì, perché stavamo cercando un nome che richiamasse un po' il mondo popolare, e alzamantici era un omino che stava dietro agli organi delle chiese e che gonfiava questi mantici in modo che l'aria arrivasse alle canne dell'organo, no? E questo permetteva poi all'organo di suonare. E quindi ci piaceva perché è un mestiere che non esiste più, era un mestiere comunque popolare. In più il mantice richiama anche il mantice della fisarmonica, e quindi ritorniamo negli strumenti che abbiamo noi. E quindi ritorniamo da Dario. Ritorniamo da Dario. E quindi anche, sì. E poi anche il mantice, non so, delle officine. Chitarra, no, la chitarra non ha un mantice, delle officine. Quindi sempre per ritornare nel tema popolare. E niente, Alzamantes è in milanese. Benissimo, quindi Alzamantes, Alzamantici. Dario, volevi aggiungere qualcosa? No, ha detto tutto. ha detto tutto lei. Quindi sembra Alzamantes un po' spagnolo, ma è milanese. È milanese, assolutamente sì. In effetti è la prima cosa che abbiamo cercato di capire. Poi sì, naturalmente... Aggiungo sì, prego Dario. Sul vocabolo Alzamantes, sì. Che su Google, se cerchi Alzamantes... ci siamo solo noi, quindi la scelta del nome è stata anche dettata, esatto. Sì, perché molte volte effettivamente ci sono dei nomi che si prestano a doppie o triple interpretazioni, esatto, quindi non si sa mai quale ramo seguire della programmazione di Google. Pink Floyd, solo che poi abbiamo dovuto cambiare perché era già stato usato da un gruppo non troppo conosciuto, che comunque mantiene il suo nome, nonostante non si sentano più in forma congiunta, ma operino in forma disgiunta, vero Maurizio, confermi? Molto disgiunta, molto disgiunta, assolutamente. Ecco qua. Fra pochi mesi, fra due mesi, sì. Uno dei disgiunti sì. Verrà a suonare a Padova, hai già preso il biglietto però magari, magari. Qualcuno ha detto quindi... magari, molti che sono venuti qua, molti nostri collaboratori hanno già preso il biglietto sì, perché passavano prima dal Geocos, poi venivano da noi. Allora, Alzamantes qui all'interno della programmazione live di Blu Radio Veneto, Blu Time Live, fino alle 22.30 e anche oltre, mi sembra di capire. Sì, sì, dalla scaletta. Abbiamo allungato volutamente, salutando Alberto Prisco, nostro direttore artistico, che avrebbe condotto la trasmissione dopo, però naturalmente non avendo le chiavi per entrare. No, sto scherzando, un altro impegno, e quindi allunghiamo un po' la nostra trasmissione con Alzamantes. E con questo lavoro che si intitola Eco di Pagine, e allora io direi, ragazzi, per continuare a parlare di musica, della vostra musica, ascoltiamo subito un brano per dire ai nostri ascoltatori di che serata stiamo serando, d'accordo? Ok. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Allora, abbiamo capito l'atmosfera in vigore in questa serata all'interno di Blue Time Live con gli Alzamantes e il loro lavoro che si intitola Eco di Pagine, e questo primo brano che abbiamo ascoltato, strumentale, che si intitola Cerchi nel brano, un po' un gioco di parole, sì, possiamo dire. Quindi com'è nato innanzitutto questo gioco di parole, che sicuramente faceva un po' riferimento ai cerchi nel grano, quelli che dicono che sono stati fatti dai marziani o dagli extraterrestri in genere? Sì, diciamo che nel mondo folk, almeno quello che abbiamo visto noi, è di buona norma storpiare i nomi sì, ma in generale sono degli alieni. Essere un po' goliardici nella scelta del nome. E in realtà è cerchi la parola chiave del gioco di parole, nel senso che questo brano è una danza che si balla in cerchio. Sì. E quindi spesso più cerchi, e quindi sono dei cerchi nel brano. Ma nello stesso maniera l'invito a cercare qualcosa all'interno del brano, esatto, no? Quindi cerchi nel brano. Benissimo, una cosa subito da notare: nel libricino che fa da corredo al CD degli Alzamantes ci sono anche vari riferimenti per ogni canzone, in maniera da darne un quadro più che adeguato a quello che è il brano che si andrà ad ascoltare. Ad esempio, questa cerchi nel brano era una Circassian Circle, sì, quindi un tipo di danza a cerchio. Sì, che in italiano è circolo circassiano. E quindi da quale provenienza? Allora, originariamente dovrebbe venire dall'Inghilterra, però in teoria poi si è diffuso molto di più nella Francia, ed è lì che ha avuto poi successo, e poi è arrivato insieme a tutte le altre danze popolari in Italia un poco più di 30 anni fa, che si sono iniziate a ballare le danze popolari provenienti dalla Francia e da altre parti dell'Europa e non. Sì, perché noi qua si è abituati a importare, quando si parla di musica folk, solitamente si parla di Irlanda, si parla di Nord Inghilterra, non si va oltre, nel senso, adesso stiamo già parlando di Francia, sì, poco Irlanda... sentita nell'ambiente folk, no, però molto vero, presente. Nelle danze tantissimo, nelle serate a ballo. Certo, quindi con la Circassian Circle, oppure anche come l'Andro, che è un altro, o Andro, sì, non vero, so come sia adesso, sì, che è brettone per l'appunto, l'ho visto anche ballare con questi vestiti caratteristici, fa veramente... dà un giusto tono, un giusto colore, soprattutto anche se uno è triste, una serata folk lo cambia assolutamente, e quindi merito anche agli Alzamantes. Tante cose, se volete già vedervi in principio, carissimi ascoltatori, con chi stiamo parlando, potete anche, oltre a che sintonizzarvi in maniera streaming audio con il nostro sito internet bluradioveneto.it, cliccando all'interno della notizia riservata agli Alzamantes, vedrete un ascolta la diretta, è proprio lì, ci siamo noi. E poi ancora un invito a vedere quello che è il sito internet di Alzamantes, che appunto è www.alzamantes.com, all'interno del quale potete vedere un po' di biografia, qualche informazione in più, e naturalmente anche come si fa per entrare in possesso del disco. Vogliamo già dirlo in principio come facciamo ad entrare in possesso del disco in maniera assolutamente legale, assolutamente, mi raccomando. Il modo migliore per impossessarsi del disco è venire a sentirci primo. E quindi comprarlo di persona. Sì. E un'altra soluzione invece è acquistarlo online. È possibile acquistare solo le tracce digitali, volendo, oppure vi spediamo il CD. Ecco, assolutamente vale la pena quest'ultima soluzione, perché col CD c'è più, voglio dire, c'è più materia, c'è più sensazione poi di ascolto, e poi naturalmente si può anche seguire questo libretto, come si ricordava prima, ben stampato e con delle coordinate importanti per seguire la vostra musica. Maurizio? Sì, il bigliettino da visita che mi hanno toste dato recita Hard, ripeto 2-3 volte, Hard Folk Band. Sì. È interessante Hard Folk Band, perché ricordiamo, qui è in versione acustica, per il nostro bassista è il basso elettrico, il nostro chitarrista è la chitarra elettrica. Sì. Perché Hard Folk Band? Allora, perché all'inizio, quando siamo nati proprio 3 anni fa, la formazione vedeva Stefano alla batteria, tra l'altro con un bel doppio pedale stasera, bello tosto. È una cosa molto ridotta stasera. Due chitarre elettriche, due chitarre. E il basso. Bello, due chitarre elettriche, esatto. Molto interessante. Più il basso elettrico e poi c'era la parte popolare che eravamo io e Dario, violino, fisarmonica, più le voci. Al che qualcuno pensava anche di sbagliare concerto, perché disse no, sì. Qua siamo andati e venuti a vedere un concerto. Sì, ecco. Poi quando scusa. Abbiamo deciso di provare a fare delle serate a ballo, quindi con la musica popolare dedicata al pubblico danzante, quindi persone che vengono e conoscono tutte o quasi le danze che proponiamo, abbiamo deciso di alleggerire un po' il tiro, ma non troppo, quindi siamo comunque tra le band più rumorose che fanno questo genere a ballo. Però abbiamo ridotto ad una chitarra elettrica, alle percussioni, il basso elettrico l'abbiamo tenuto e poi ci siamo sempre perché mischiate vedere. Il folk sì, ma con sonorità rock, sì. Con sonorità questo rock, ci esatto. permette di avvicinare a questo genere che magari spaventa un po' i giovani, persone che appunto sono un po' più della nostra età, certo. Perché comunque è un genere a ballo molto bello e divertente, faticoso anche ballare, seguire i concerti, però un ragazzo magari di 20-25 anni che non lo conosce dice ma non so, è la balera o invece non è assolutamente così. E comunque mi sembra di capire che c'è anche un po' una riscoperta da parte dei sì. giovani e vediamo anche voi, naturalmente che non siete proprio così vecchi, no. Perché tu adesso parlavi Maddalena di giovanissimi o giovani, ma voi siete lì. Beh, sì, quindi più siete giovane voi. Stefano, che non mi ricordo mai quanti anni ha, 21? 12. 22. 22. Ecco, 22. Però appena compiuti poco fa. Sì. Ecco. 12 ha detto. E quindi 12. Una band assolutamente nuova e quindi già avere 22 anni e suonare il cajon in un'orchestra, voglio dire, in un gruppo... Poi suona sì. la batteria. Poi suoni la batteria, il certo. Il abbiamo caone... fregato ogni tanto. Ti hanno costretto per sì. qua stasera, chiaramente sì. non c'era soprattutto spazio perché non ci stavi in macchina. Esatto, no. È per quello forse. Per resto. Vabbè, allora stiamo piacevolmente conversando con Alzamantes, Eco di Pagine e il nuovo lavoro che stanno proponendo. E adesso allora apriamo i microfoni anche alla strumentazione musicale perché ci fate ascoltare già qualcosa live, vero Dario? Sì. Rimaniamo appunto in territorio francese e proponiamo una Bourrée a due tempi. Benissimo, allora qui a Blu Radio Veneto ascoltiamoci la Bourrée con gli Alzamantes. Thank you. sentito. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. È proprio musica da esaltazione questa, perché effettivamente ascoltare queste lunghe ballate tradizionali mette veramente la grinta. Noi siamo fortunati questa sera, amici di Blu Radio Veneto, perché abbiamo con noi gli Alzamantes che ci stanno proponendo alcuni pezzi del loro nuovo lavoro che si intitola Ecco di Pagine. E abbiamo cominciato con la tornata live ascoltando questa Bourré, che è una danza di corteggiamento. Una danza di corteggiamento. Sì. Che in francese vuol dire farcita, vuol dire piena, zeppa. Ne sa più di noi. Ne senso, sai più di noi, non però, lo sapevo. Ecco, comunque, vabbè, piccola cultura francese, comunque non importa. Bourré è a indicare comunque questa danza che, come dicevi tu, serve ad accalappiare. È una danza molto elegante, in realtà sì, sì. Si balla in due e non c'è mai contatto fisico. In realtà c'è tutto un gioco di corteggiamento anche con gli sguardi, ci si avvicina, ci si allontana, non ci si tocca mai nelle mani, né niente, quindi tutto qua. È molto elegante e bella, si ballava già... Luigi XIV, ci siamo informati anche noi. È una danza di corte. Ah, molto, molto bene. Quindi molto si bene. Fa anche memoria storica di quanto succedeva anche alla corte quando non c'era la rivoluzione francese. C'erano anche questi bei balli. La le Bourré teste erano abbiamo... tutte al loro posto. Insomma. Come scusa? Le teste erano tutte al loro posto. Tutte al loro posto. E una chitarra elettrica come si inserisce in questo pezzo? Visto chitarrista elettrico è come si inserisce? Perché tu l'hai inserita sicuramente. Io l'ho inserita chiaramente. No, Stefano, dai. No Andrea. Scusami, Andrea. Però anche lui un po' lui l'ha suonata, insomma, col cuore un po' l'ha suonata anche lui. Stefano al cacon, ricordiamolo. Si inserisce cercando, no, secondo me, di essere meno invasivi possibili. Cioè deve accompagnare e non deve essere restare, protagonista. Sì, deve restare comunque caratteristica, nel senso, una chitarra elettrica suona come una chitarra elettrica, farla suonare come un'acustica è uno spreco di tempo, però cercando comunque di lasciare un sacco di spazio. Comunque la fisarmonica e il violino prendono via molto spazio di frequenze di suono e bisogna lasciarglielo prendere, perché sono obiettivamente la parte importante della, ecco, della, certo, questione. Per cui si fa da contorno il più piacevole, sì, possibile, assolutamente, diciamo, da contorno, perché all'epoca Luigi XIV la chitarra, esatto, elettrica non c'era. No, esatto. No. Assolutamente no, a meno che tipo Slash non sia più vecchio di quello può che pensiamo, può darsi, non si sa mai, questo non è detto. Dal vivo, quando c'è la chitarra elettrica che fa gli assoli, così ci sono tutte le ragazzine che si strappano i capelli, sì, e le vecchie signore che vogliono scappare. Vedi, in realtà c'è più, poteva essere anche una coniugare il punk, perché il punk può essere coniugato anche così, le donne si girano, vedono il chitarrista, dimmi, e alzano. Ci sono mani. Alcune danze, specialmente la zona occitana, che rifatte punk, secondo me, sembrano fatte apposta. Certo. E i Pox hanno, esatto, parlando di Pox, esatto, chiaramente, al di là che loro non hanno pescato sulle danze di Luigi XIV, però hanno pescato sul folk anche loro, chiaramente. Benissimo, allora, la band degli Alzamantes è nata circa 3 anni fa, no? Nel 2010, sì. E c'è stata una volontà congiunta di due persone che sono incontrate e hanno detto facciamo seriamente qualcosa. E allora, Dario, com'è nata la faccenda? Ti sei incontrato con Maddalena, qua bacini, posso dirlo perché non... Perché nessuno ci sta vedendo, per cui Maddalena ha mandato 2 teneri baci, ecco, verso Dario, che allora Dario... Non la vedete, adesso ma è rosso. Come la no, maglietta. Lui più di me però. Sì, tu hai anche riflessi nel maglioncino. Quindi, bene, Dario, scusami. Allora, beh, diciamo che in realtà è Maddalena quella ad avere nel sangue più musica folk di quella che ho io sono sempre stato un appassionato, ma diciamo che abbiamo voluto coniugare quella che era la mia esperienza, che non era molto folk ma anzi era più sul rock, sul punk, con invece... Vedi che il punk viene sempre fuori, vedi che il punk viene sempre fuori, dimmi. E con invece il suo spirito prettamente folk, popolare. Abbiamo provato a mettere insieme le cose, nel nostro immaginario aveva un bel potenziale e abbiamo deciso di investirci. No, di prego. No, immaginare poi nella realtà, insomma. No, nella realtà è molto meglio. Benissimo, allora Alzamantes. La passionaria, sì, sì, praticamente sì. La passionaria è lei praticamente. Beh, no? Sì. Beh, sì, nel senso musicale del termine. Beh, vengo da famiglia di ballerini e musicisti popolari, quindi direi di sì. Benissimo, allora abbiamo ascoltato un po' come è nata, come c'è stato questo primo incontro per porre in opera Alzamantes, questo progetto musicale oltre che band. Abbiamo un disco da proporre in questa serata, si intitola Eco di Pagine, il loro nuovo lavoro, e adesso ci ascoltiamo la traccia numero 4 che si intitola Tourdion, restate con noi. Buvons bien, buvons mes amis trains, comme buvons gaiement chantons. Buvons bien, buvons mes amis trains, comme buvons gaiement chantons. Buvons bien, buvons mes amis trains, comme buvons gaiement chantons. Quand je vois des bourrelets, à mes deux ans, mes amis, très chants, je vois un chêne-toi. Quand je vois des bourrelets, à mes deux ans, mes amis, très chants, je vois un chêne-toi. Chante la jambe, la jambe, assez de la bombe, faisons la guerre. Chante la jambe, la jambe, assez de la bombe, faisons la guerre. We'll be right back. Radio Veneto. Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Un brano veramente potente a confermare che stiamo parlando di hard folk. Alzamantes, il loro lavoro, quello che ci stanno proponendo in questa serata, si intitola Eco di Pagine. Le coordinate anche di come entrare in possesso le diremo anche più avanti. Tourdion si intitolava questa ballata, questa canzone, con un sottotitolo: Il mio bicchiere sa cantare. E già dalle voci dei cori che si sovrastano sembra che il vino faccia bene a una certa, sì, in una certa situazione, no? Quindi si canta tutti insieme, si beve tutti insieme, e un bicchiere in più a volte non fa male. L'importante è non guidare, poi, Beh, è una canzone francese proprio che fa è un inno al vino. È un inno al vino, e ai francesi che sono nostri diretti concorrenti nella produzione del vino, insomma, vuol dire Tourdion, quindi non è un giro, diciamo, di Tourdion è il nome della danza Tourdion, originale, un giro, esatto, di burré, come si può dire in questo caso. È una burré o è una, no, è una danza, giga, è una si qualcosa, Tourdion, Tourdion proprio un cerchio. Ed è del 1500. Poi noi abbiamo preso questa melodia che ci piaceva molto, l'abbiamo trasformata in realtà in un'altra danza, ma anticamente si ballava proprio come Tourdion, che è un tipo di danza particolare che adesso non si balla più. Certo. Allora, Dario mi diceva fuori dalla diretta che adesso Alzamantes non è solamente un gruppo che fa musica, ma è anche protagonista di quella che è la musica tradizionale, quindi sta portando avanti un messaggio anche, diciamo, visivamente parlando, nel senso che ci sono dei ballerini, ci sono altre persone implicate in questo progetto. Sì, allora, diciamo, innanzitutto il progetto originario è quello di diffondere questo mondo attraverso inizialmente la nostra musica. E dopodiché ci siamo accorti che la cosa funzionava, c'è stato un buon feedback da parte di chi veniva ad ascoltarci, voleva imparare le danze, eccetera. Allora abbiamo pensato di non solo di suonare, ma anche di costituirci un'associazione culturale e organizzare anche corsi. Corsi di ballo, festival, insomma tutto quello che sta anche dietro il mondo del ball folk. E tutto qui, quindi diciamo che inizialmente il progetto si è scorporato, è nato Alzamante Strad, che era la versione, diciamo, più acustica, più fedele alle versioni originali di questi balli. Un po' quello che state proponendo anche stasera. Sì, diciamo di sì. E il progetto Alzamante invece prendeva la sua strada, come dire, rock, benissimo. Rock. Una cosa che non abbiamo detto di Tourdion è sapere anche tutti quelli che hanno partecipato oltre a voi all'interno di questo appunto turbinio. Questa piccola jam session, sì, potremmo dire. Questa piccola jam session. Vai, Maddalena. Maddalena, sì. Essendo un coro a quattro voci, abbiamo chiesto aiuto a degli amici che sapevano cantare, quindi oltre a la mia voce, la voce di Dario, la voce di Andrea, sono state registrate la voce di Plania Francesca Fodris, che è un soprano, tra l'altro anche lirico, ma si è prestato qui per il brano più popolare, una ragazza che suona l'arpa, che si chiama Ambra Canevari, e poi due ragazzi, Daniele Cocilovo e Andrea Herrera, un organista e un chitarrista che... Ecco, sono venuti a dare aiuto alle voci dei tenori. Quando li vedete, fate i complimenti anche da parte nostra. Va bene, d'accordo. Riferiremo. Sì. Voglio lei parlare un momento col new entry, col bassista. Caro bassista, ho sentito che hai studiato in tre mesi, hai imparato 32 pezzi. Ebbene, Alessandro. Sì, Alessandro. Meno di tre mesi. Com'è stato imparare 32 pezzi in poco tempo, Alessandro? Beh, esatto. Innanzitutto meno di tre mesi, perché c'erano subito, e quindi dovevi imparare immediatamente. Non gli abbiamo dato tanto tempo, gli abbiamo detto un mese. E l'inserimento, tu che perveni dal rock anche tosto, l'inserimento è una formazione che ha del rock, sì, ma anche del folk. Com'è stato, Alessandro? Beh, è stato più facile del previsto, in realtà. Beh, c'è da dire che l'impostazione dei brani già si prestava molto comunque a un lavoro di tipo rock. Io poi già li seguivo da prima di entrare nel gruppo, per cui diciamo che sapevo un po' come muovermi. Però è stato un lavoro duro, va bene, però in realtà più piacevole che altro. Meno male. Bene, abbiamo capito come si entra. Un bassista rock entra in un gruppo folk. Soprattutto parlando bene degli altri alzamante, se si può entrare. Infatti adesso suona un sacco e la sua fidanzata ci odia perché non lo vede più. Ah, ciao Lidia! Che poi c'è sempre questo problema. I musicisti che fanno tanta strada ci si chiede sempre se hanno degli affetti, se lasciano. Ci sono, solo che ci sono delle date. Sono ad esempio, fortunati che se li portano dietro. Sì. Ecco qua, sì. Abbiamo notato... Giochiamo in casa. Ecco qua. Allora, riprendiamo la serietà. Ecco qua. Allora, Alzamantes, c'era un'altra domanda che vi volevo fare. Anzi, no, volevo ricordare ai nostri ascoltatori che possono mettere anche il mi piace sulla nostra pagina Facebook. Quindi Blu Radio Veneto. Rock Wave si chiama così la pagina, dove potete vedere altre notizie riservate agli Alzamantes oltre che alle nostre altre programmazioni. E niente, allora continuiamo con la musica, questa volta ancora un brano live. Cosa ci proponete, Alzamantes? Proponiamo un brano che è rinascimentale, che si chiama Brand de Cos, e niente, tutto qua. Era ecco. Già presente. Vabbè, è un brano rinascimentale. Allora facciamolo ascoltare. Ero distratta perché stavo prendendo il violino. Benissimo, ecco qua, violino, Maddalena, poi ancora Dario alla fisarmonica, Stefano al cajon, Andrea alla chitarra, Alex questa sera senza strumenti. Al tifo, ecco qua, col cuore e con gli alzamanti. Benissimo, ecco qua questa bella canzone ascoltata all'interno di Blu Time Live, mentre sono le 21:41 minuti primi. We'll be right back. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Un'altra bella ballata hard folk con gli Alzamantes per la presentazione del loro lavoro che si intitola Eco di Pagine. Allora, Alzamantes, intanto complimenti perché stiamo ascoltando dei pezzi davvero belli che si fanno ascoltare e chiudendo un attimo gli occhi, ascoltando per radio, diciamo che l'atmosfera è quella giusta per creare una serata alternativa. Allora, innanzitutto, questo è il vostro disco numero? Uno. Benissimo. No, è giusto chiedere, soprattutto perché è un disco veramente ben fatto, certo, da gente che sa fare musica, però fare un disco deve essere sempre un qualcosa in più, ci deve essere un'emozione oltre quello di fare musica. Allora, innanzitutto, come è nata la volontà di fare il disco? Voi che comunque come Alzamantes vi esprimete sempre in un'atmosfera live come in questa serata, vi mancano un centinaio di persone da far ballare, però diciamo qui davanti, però naturalmente via etere magari ne facciamo ballare di più, ecco, diciamo, o speriamo di fare in questo senso. Allora, beh, diciamo che siamo innanzitutto dei nostalgici del supporto materiale. Sì. Poi comunque abbiamo fatto tante demo prima di arrivare a questo CD, per noi era importante mettere nero su bianco il lavoro che stavamo facendo. Quindi dopo numerose demo un po' bruttine abbiamo deciso di spendere un po' di soldi una volta per tutte e fare un lavoro, insomma, anche perché ce lo chiedevano, a fine di ogni concerto iniziavano a chiederci il CD, perché in realtà il pubblico che balla apprezza, certo, è ancora certo uno di quei pubblici. Pubblici. Che apprezza il CD e che lo compra. Musicalmente questo pezzo qua si nota, secondo me, anche secondo Flavio, la circolarità della musica folk, assolutamente circolare. C'è il riff che continua, si sviluppa, poi riprende, si sviluppa e continua. Tu praticamente fai una batteria con questa fisarmonica, fai un stop and go continuo, cioè dai il ritmo, poi lo freni e lo riprendi. Sì, diciamo che le melodie generalmente sono semplici. Dobbiamo tener conto che questo è un pezzo di Rinascimento, però riveduto e corretto da voi. Esatto. Sì, diciamo che sono comunque impostati i riff melodici in funzione sempre della danza. Del movimento. Del movimento. Quindi la melodia deve accompagnare colui che balla a muoversi secondo la danza. Quindi sì, la batteria ci sta benissimo. Batteria ci sta benissimo. È fondamentale. Anche se siamo limitati in certi schemi, sì, obbligati dalla danza. Però limitate per modo di dire. Perché sì, il nostro batterista vedo che si muove, purtroppo è solo il caon stasera, però vorrebbe mettere un po' di piatti, un po' di... Scalpita. E quello che stiamo cercando di fare è prendere appunto una melodia che può essere come questa, che in realtà è la stessa melodia dall'inizio alla fine, e giocarci sopra con le dinamiche, gli strumenti che entrano ed escono, cambi. Anche i buoni Led Zeppelin hanno preso un po'. Dobbiamo ricordare che il chitarrista di Led Zeppelin era fondamentalmente un chitarrista folk, poi ha sviluppato le cose, però sono partiti tutti dal folk, caro Flavio, lo sai benissimo. Sì, benissimo, poi sappiamo che invece c'è uno che è arrivato al folk. Esatto. Un certo Ricci che adesso sta sì, suonando. Lui ci è arrivato e ci ha anche stufato, può esserci arrivato dopo un po'. Insomma. La moglie non ci ha stufato. No, quello succede. Candice Knight è la esatto moglie, lui non ricordo il cognome, certo Blackmore forse. Blackmore. Benissimo, vabbè. Allora abbiamo iniziato già a parlare ad altri, perché non continuare su questa riga chiedendo a ciascuno di voi quelle che sono le provenienze musicali e se non altro cercare di capire quelli che possono essere tre album, tre artisti abbinati a un album che vi hanno un po', come dire, aperto la strada, non solamente alla musica folk in questo caso, ma alla vostra voglia di fare musica. Quindi partiamo da sinistra, escluso Maurizio che è il conduttore. Allora Diego, abbiamo Dario. A Dario non dico. Sì. Allora, domanda difficile. Sì. Diciamo che, per quanto mi riguarda, non ho propriamente un gruppo, un artista di riferimento che mi abbia ispirato particolarmente per fare quello che sto facendo. Diciamo che, non lo so, il folk l'ho masticato fin da bambino, sai, crescendo coi nonni, passando le vacanze estive e Natale coi nonni, tutto quello che è il mondo della musica popolare ti entra dentro senza neanche che te ne accorgi. E in più da ragazzino, ascoltavo molto Modena City Ramblers e tutto. Mi hai rubato la risposta. C'è una regola ferrea che Flavio non te l'ha detto, sì. Non si può copiare. No, ma è lui che ha copiato me. No, io sono nato prima, quindi Bene, discussioni familiari. Allora, sì, prego, scusa. Non saprei. Di sicuro negli ultimi 10 anni anche il fenomeno Van de Sfrosa ha sicuramente influenzato poi dalle vostre parti, soprattutto sì dalle nostre parti. Benissimo, Van de Sfrosa naturalmente nella versione live, perché è lì dove dà il meglio di se stesso, no? Sì, ha fatto anche dei buoni dischi, sì, dei buoni secondo dischi, me. Certo. Ne ha fatti tanti per quello. Purtroppo ne ha fatti troppi, sì. Secondo me, per quel che mi riguarda. Però, ne ha fatti troppi, secondo te? Sì, ne avrei fatti un paio in meno. Ma doveva farsi conoscere, hai capito? Certo, allora il nostro Davide Bernasconi. Allora, tocca a Maddalena. Tocca a me. Esclusi Modena City Ramblers. In realtà io vengo dalla classica. Sì. Ho iniziato a studiare classica perché il violino obbliga un po'. Poi ho lasciato qualche anno fa perché comunque ho deciso che non mi interessava suonare in orchestra, ma mi interessava più fare ricerca e questo tipo di musica. Quindi comunque io tra i miei CD metterei un bel qualcosa di barocco, tipo Vivaldi, ce lo devo mettere perché è lì, lo so. Ricordiamo poi quel grande lavoro. Hai rubato la risposta allo Stefano. No, direi di no, lo Stefano direi che Vivaldi non ce l'ha. Quel grande lavoro legato alle pizze, no? Le quattro stagioni. Ecco, benissimo. Sì. E poi, io ho ascoltato tanto quando ero ragazzina De André, però soprattutto nel riarrangiamento con la PFM, quindi tutto quello che è comunque anche lì, no? Uno stile un po' più popolare, un po' più arrangiato. Ho rubato la risposta ad Alessandro. Sì. Questa, la terza, non la ruba nessuno. Io dico, quale Spice va bene. La terza non la ruba nessuno perché è un gruppo che suona da 30 anni e quando ero piccola lo ascoltavo, è un gruppo che fa musica popolare, ricerca importante, si chiamano i Barabane. Ah, Barabane. E suono da 5 anni anche con loro, quindi dopo ci sono arrivata. Bene, fantastico. Allora adesso al cajon e in questo momento Vivaldi l'ho già voce. Detto io. Sì. Stefano, tu direi sicuramente qualche nome di qualche batterista importante. No, vediamo. In verità la prima volta, cioè, ho conosciuto il folk da quando ho conosciuto Dario. Sì. Ma il gruppo più vicino al folk erano forse gli Iron Maiden. Ho capito, sì, certo. O i Manowar. Sì. Cioè, è stata una bella scoperta in fondo. Ora sto scoprendo un sacco di bella musica, di bei gruppi. Quindi Iron Maiden a parte. Sì, ormai non dico non li ascolto più, ma li ho accantonati per un attimo per... insomma, aprire un po' gli orizzonti. Benissimo, ancora Andrea alla chitarra. Presento un attimo che arriva. Sì, ecco qua, arriva il allora, microfono. Allora, io sono come Stefano e come Alessandro, sono un pochettino un parvenu nel mondo del folk, nel senso che non ne sapevo assolutamente nulla. Però posso dire che la mia mamma e il mio papà mi hanno fatto ascoltare tanto Guccini e tanto De André da piccolo. Infatti tu sembri Guccini quando infatti canti. Infatti poi io sembro Guccini perché la R è un po' un vezzo. Prova a dire se io avessi previsto tutto questo. Vai, cantalo. Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Guccini, ecco. Poi i miei sono di mia mamma e di Bologna, per cui ci abbiamo un'affinità. Bene, via Paolo Fabri magari abita? No. Ok, no, purtroppo no. Sì. In realtà sono cresciuto poi con i gusti musicali un po' come tutti dei miei genitori, per cui i Beatles, i Genesis, i Led Zeppelin e Jethro Tull, quella gente lì, io derivo da quello. Poi ero anche il metallarino al liceo, ero l'unico vestito da metallaro, tutto incattivito, nero con le catene. Poi anche a me è passata un pochettino. Sì, adesso gli amici te vedono sul palco in versione folk e ti prendono. Sì, mi deridono, mi tirano le bottiglie. Benissimo. Allora, ultimo ma non ultimo, Alessandro. Allora, eccomi. Sì. Ti abbiamo rubato tutte ormai le risposte. Esatto, mi hanno rubato tutti. Hanno citato praticamente molti dei gruppi che anch'io ascolto e ho cominciato ad ascoltare per la prima volta quando avevo veramente 13 anni. Allora ti faccio una domanda esclusiva. Oh, grazie. Il tuo bassista preferito? Faso. Sì. Elio Le Storie Tese. Vai. Ah, vedi, quindi applausi. Facciamo il fasolo della situazione, grande, grande bassista, diciamo molto legato alla, alla, come dire, alla musica zappiana, diciamo. Esattamente. Così. Ma infatti Zappa sì, c'è dentro comunque. Ma anche i Weather Report, che sono comunque sì, Jacopo Astorius in testa, quindi hai citato Dio in pratica. Sì. Al folk diciamo che mi sono più avvicinato tramite Dylan, Donovan. Jethro anche Tull. Donovan, fermiamoci un momento, tu hai citato Donovan, io sono molto contento, io sono un fan sì, incallito. Perché quando si sente Donovan, Maurizio... Devo fermarmi, tu sei molto giovane. Donovan perché? Perché sei riuscito, hai scoperto Donovan? Beh, principalmente... Dove l'hai che pezzo hai sentito di Donovan? Beh, il primo pezzo penso fosse... Oddio. Catch the Wind, Colors, Season of the Witch. Ah, Season of the Witch, sì, beh, quello sì, è psichedelico, l'hai sentito sì, psichedelico? Esattamente, però poi da lì si è aperto tutto il resto. Lo sai che Season of the Witch è forse uno dei pezzi più psichedelici citato da un sacco di gruppi emergenti psichedelici, certamente, inglesi, americani, eccetera. Poi Donovan aveva... aveva tante presenza, cose. Diciamo che era il concorrente di Dylan, esatto, per cui inglese, era bello vivere questo... duello. Hai detto una cosa giustissima. Bene, accettato Donovan, sono molto contento. Abbiamo concluso il cerchio, ci abbiamo messo un pochettino, ci sono tanti gusti uguali, tanti gusti diversi, abbiamo parlato anche delle sonorità appunto vicine o lontane, gli Alzamantes. Ritorniamo a parlare di questo disco, anzi più che parlarne noi ascoltiamo un altro pezzo. Da Eco di Pagine abbiamo scelto la traccia numero 5 che si intitola Latte e Biscotti, e poi mi devono spiegare il perché di questo tipo. Thank you. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. No, dico, fortuna che non l'hanno suonata dal vivo qui nei nostri studi questa sonorità di latte biscottish, altrimenti si rischiava di rompere qualcosa, no? Sì. Perché mi sembra di capire che verso la fine qualcuno spacchi la chitarra, no? Ci sono queste atmosfere molto molto forti, hard folk, l'abbiamo detto sin dal principio. Alzamantes qui con noi per la presentazione di Eco di Pagine e anche per spiegarci una cosa. Allora, latte e biscottish. Allora, uno scozzese sicuramente non la capisce. Noi sì. No, allora, una battutona. Spiego la prima e poi tu spieghi la seconda parte. Sì. Tu spieghi il latte. No, io spiego. No. Io spiego allora, Scottish. Perché è una Scottish. La danza sì. È una Scottish. Ok, quindi sì. Latte invece. No, dovevi spiegarlo tu, è invenzione tua. No, è un grande segreto. È un grande segreto che sveleremo con l'uscita del prossimo disco. Sì. Ah, molto bene, quindi allora rimandiamo al prossimo disco, al prossimo invito qui all'interno degli studi di Blu Radio Veneto, all'interno di Blu Time Live, per svelarci il segreto di Latte e Biscottish, che potrebbe essere una validissima canzone, musica da ascoltare appena svegli, naturalmente facendo colazione per ritrovare in 3 nanosecondi quello che è il ritmo della vita. Vai. Proposto appunto dagli Alzamantes, quindi un consiglio che vi diamo noi. Allora, sono le 22:02 minuti primi e direi che potremmo ascoltare, visto che prima abbiamo parlato tanto, facciamo ascoltare anche qualcosa di acustico, visto che avete gli strumenti musicali, è un peccato lasciarli lì a riposare, no? Quindi facciamo ascoltare, anche perché durante i vostri concerti gli strumenti veramente li fate stancare. Beh, anche perché sì. Il nostro concerto dura anche 2 ore e mezza, 3. Quindi, Springstiano praticamente, 3 ore alla Springsteen. Piccola pausa, ma sì. Sì. Il segreto per stare si può dire. Un bicchiere di vino. Tante ecco corde qua. Di ricambio. Ah sì, lui le corde, ne rompe una o due a concerto. Ah, molto bene, quindi... Io ho risolto sì. Con il violino di scorta, almeno cambio violino e basta. Io con un buon gutturio. Ecco bene, quindi il bassista invece... Non le rompe le corde il bassista. No, non le rompe le corde. Anche perché sono molto, molto, molto più grosse rispetto alla chitarra, le corde del basso, no? No, infatti, anche perché mi taglio le unghie, quindi in realtà me le mangio, però... Quindi non c'è pericolo. Ok, allora, mano agli strumenti, perché adesso ascoltiamo un bel reel. Sì, è forse il brano con più note che abbiamo in assoluto. Con più? Note, ha un sacco di note questo brano. Benissimo, allora cerchiamo di notare pian pianino tutte le note che ci sono. Alzamantes, qui a Blu Radio Veneto. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Blu Time Live prosegue, sono le 22:09 minuti primi, con l'ascolto della musica degli Alzamantes che sono venuti a trovarci qui all'interno della nostra programmazione serale in assoluta diretta. Poi ricordiamo che questa trasmissione, quella che state ascoltando senza levarci una virgola, quindi accettando anche gli errori della diretta, sarà sistemata all'interno dei nostri archivi sonori, per cui se volete, carissimi ascoltatori, ascoltare, riascoltare questa trasmissione, potete farlo accedendo sempre tramite il nostro sito internet, andando nella pagina riservata agli Alzamantes e scaricando questo podcast che mettiamo a disposizione, così un po' per vedere anche quella che è la differenza tra i brani che gli Alzamantes hanno proposto dal vivo e quelli che sono i brani che sono contenuti all'interno di questo eco di pagine, che la maniera, ricordiamo ancora una volta, la maniera per entrare in possesso con l'aiuto di Dario. Ok, allora www.alzamantes.com o.it, è indifferente, li abbiamo comprati tutti e due per sicurezza. Bravi, così fate bene. Badiamo a spese. Sì. E, beh, torno a ripetere, il modo migliore è venire a sentirci, a partecipare a uno dei nostri concerti, quindi acquistarlo, insomma, di persona. Un altro sistema è quello di accedere al sito web. E alla sezione disco sarà possibile acquistarlo sia in versione cartacea o se no in versione digitale. E la versione digitale conterrà anche il PDF con il libretto, con le copertine, di modo che ognuno potrà farsi la propria copia pirata in assoluta legalità. Sì, benissimo, bello questo. Senza rinunciare al gusto, sì, di avere la copia, certo, pirata, certo, fotocopiata, quindi... Certo. E... questa non l'avevo ancora sentita. Se poi fa le fotocopie in ufficio è ancora più piratata. Sì. Bianco e nero. Sì. Allora, abbiamo ascoltato adesso un reel, sì, che è una danza popolare irlandese, sì, scozzese, quindi diciamo del nord. E una musica che normalmente andava suonata con violino, fisarmonica e forse cornamusa, un hornpipes, no? Oppure un battente. In questo caso c'è stata una rivoluzione, sì, che poi è ancora più una rivoluzione quando suonate da disco, sì, quindi chitarra elettrica. Sì, purtroppo non sappiamo suonare tutti gli strumenti, quindi dobbiamo un po' riarrangiarci con quello che abbiamo. E gli unici due strumenti acustici che fanno la melodia siamo io e Maddalena, violino fisarmoniche, quindi possiamo giocare su abbastanza suoni data la versatilità del mio strumento, ma non così tanti. Certo, quindi... prima si parlava di extreme ballad, no? Quindi ballate estreme, ma la gente che viene a sentire, a vedere, balla? Si muove? Viene... Sì. Infatti, oltre perché per comprare il CD bisogna, sì, venire ai nostri concerti anche per vedere l'atmosfera che si crea, perché poi quando tu sei sul palco, suoni e davanti a te ci sono 100-150 persone che ballano, spesso tutte insieme, perché poi le danze più note le ballano proprio tutti, è proprio uno spettacolo coinvolgente, uno non se lo aspetta. Ad esempio Alessandro, quando ancora non suonava con noi, che è venuto a vedere uno spettacolo, ci sei rimasto un po', c'erano 200 persone, eravamo a Paderno Dugnano, 400 persone, sì, esatto, sì, io non moltissime. So contare, cioè, però erano proprio tante, quando c'erano le danze di gruppo tutti insieme, non so, cioè suoni anche meglio. A proposito di questo pezzo che abbiamo sentito adesso, sì, ha la caratteristica di non finire mai. Cioè, ti può essere, può andare avanti fino a che vorrete voi e finché vuole, sì, il pubblico, sì, chiaramente. Io ho visto qualche altro concerto di musica presunta irlandese, folk, cui il pubblico praticamente invitava il palco, cioè la band, a suonare in continuazione, non si, sì, fermava mai. Sì, sì, ci sono delle danze che hanno che richiedono pochi giri, e ce ne sono altre invece che, ad esempio, se tu appunto balli con 400 persone, devi per forza, certo, aggiungere qualche giro in più finale, perché proprio vogliono ballare anche tra di loro. Ci sono danze cui si scambiano le coppie, uno aspetta, no? Magari vede il ballerino lontano, dice: ah, speriamo di poter ballare con lui. Insomma, sappiamo quando si comincia, ma non si di fatto sì. Quindi andate, certo, in apnea praticamente. Sì. In un certo senso sì, ma diciamo che viene conosciuta anche come la ballata dell'Highlander per la serie Ne rimarrà solo uno. È vero. Benissimo. Alcune sì. Alcune sì. Benissimo, adesso ci concediamo una piccola pausa dopo la musica dal vivo e dopo questa sana chiacchierata per ascoltarci ancora un altro brano da disco, questa volta il numero 2 del CD, si intitola Cantico degli Avvoltoi. Eccola qua. We'll be right back. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Stiamo piacevolmente ascoltando tracce del CD Eco di Pagine degli Alzamantes, alternato anche a quella che è la proposizione acustica, grazie agli Alzamantes che sono qui in studio con noi all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, chiamata appunto Blu Time Live. Ancora una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Allora, abbiamo ascoltato questo cantico degli Avvoltoi e per la prima volta abbiamo sentito anche il titolo del CD, esatto. Appunto Eco di Pagine, proprio inserito nel testo. E allora subito la domanda che non abbiamo fatto prima volutamente, il perché del titolo di questo disco come Eco di Pagine. Allora, se la battagliano tra Maddalena e Dario, chi vince? Vince. Beh, Maddalena, no, quindi tocca Dario. Dario. Giusto, vince Maddalena, quindi tocca Dario. Sì, giusto. Ma era anche per richiamare un po'... È tu, il titolo lo devi dare tu. Diciamo... uno suona molto bene. Sì, okay. Sì, certo. Ma poi l'idea era apri il baule in soffitta e trovi le cose antiche, no? Non era un discorso così. Sì, poi era... diciamo che era una parola, erano più parole inserite nella canzone di punta del disco, sì. Ed era un po', cioè serviva anche a richiamare quello che è il nostro essere nostalgici della pagina, di ancora qualcosa che si tocca, insomma... Era un titolo che ci sembrava abbastanza folk. Sì, e gli Avvoltoi nel folk come si sposano? Lì bisognerebbe... Di solito sono quelli, gli Avvoltoi sono quelli che stanno lì, che aspettano che la preda tiri gli ultimi, si dice così da nostre parti, cioè cessi di vivere per andare verso di lei e cominciare a papparsi. No, lì quindi, in quel caso... Per quanto riguarda gli Avvoltoi, vabbè, bisognerebbe entrare più nel merito del testo della canzone, ma... Certo, comunque assolutamente lontana da quella che era la programmazione, diciamo, video con gli Avvoltoi di Mowgli con il libro della giungla, no? Sì, assolutamente. Questo poi è, vabbè, il brano un po' più hard, forse cioè più vicino a più estremo, diciamo, del CD. Comunque vogliamo dare anche un significato del perché di Avvoltoi, perché chi collabora con voi nella canzone ha un cognome che si sposa molto con i rapaci. Allocco o Allocco? Ciao Luca! Ciao Luca. sì, è il nostro amico chitarrista che ha suonato, ex chitarrista degli Alzamantes, che ha suonato proprio all'inizio con noi e collabora spesso, ci fa piacere che torni quando abbiamo bisogno e abbiamo voluto un suo assolo nel disco. All'inizio l'assolo lo fa lui e Andrea. E poi già che ci siamo, io saluterei la mia amica Plania Francesca Fodris, che Ciao. Ha fatto il coro finale lirico che noi non potevamo fare, quindi abbiamo chiamato che lei. Avevamo già sentito anche in un altro pezzo. Sì, nel Tour d'Yon. Nel Tour d'Yon. Io vorrei un attimo, scusa, approfitta visto che stiamo salutando. Sì, certo, così. Certo. Sì. C'è una persona che ha suonato sul disco, anzi due persone che hanno suonato sul disco e non posso, cioè non sono qua presenti. Uno all'altra alto abbiamo sentito anche una solo prima. Per cui salutiamo Lorenzo Tagliapietra e Davide Romagnoli, che hanno suonato rispettivamente l'altra chitarra elettrica e il basso sul disco, perché è brutto lasciarli fuori. Certo, giusto. Mentre il pezzo andava, caro Flavio, parlavamo con la band e parlavo del discorso della sezione ritmica. Chi dà il là? Io pensavo fosse il batterista, ma hanno detto che il là lo dà Maddalena, non col violino, ma in un certa maniera. In quale maniera dai là alla band praticamente? Allora. Dopo parliamo anche col batterista che è pronto. E è sempre Tonsfog da Iron Maiden, lo so che tu hai sempre in mente. E io quando suono mi muovo molto e lancio anche delle occhiatacce, infatti non mi sopportano più, però vabbè. No, perché in realtà la velocità e l'andamento della danza lo decidono i ballerini e la sala o il luogo in cui facciamo il concerto, quindi bisogna suonare guardando la gente che balla e niente, si adatta a velocità loro, poi io magari ho un po' più in mente come deve funzionare la danza, poi ci si guarda tanto mentre suoniamo, questo è bello, ecco. Se ci guardiamo riusciamo ad avere una sintonia bella, forte. Il batterista come ti guarda o come guarda gli altri componenti della band? Anche perché il batterista solitamente è uno che segue sempre uno schema di ritmo e diciamo, invita gli altri diciamo, a seguirlo sì, in compagnia del bassista. Sono io che seguo. In questo caso tu devi accelerare. Cioè, in diciamo, realtà siamo sì. noi che ci adattiamo. Sì. Poi sì, è ovvio sì. che se mi dicono accelera, sono io che accelero. Certo. Quindi, poi lui è molto bravo comunque a seguire, sì, a capire. Sì. No, nel senso, ci tira tutti bene dietro. Oddio. Avrei da ridire. No. Però diciamo è la serata delle proteste. Bene, perché con i microfoni aperti si può dire di tutto, tanto poi si ritorna a casa e si è tutti amici, no? Come prima, basta un bel bicchiere di Gutturnio. O Bonarda. Oppure Nero d'Avola, mi piace. Oppure ancora Croatina. Ecco, bene. Abbiamo capito. Amaro del capo. Amaro Grazie. Del capo, tanto amaro del capo. Benissimo. Si poteva fare questa pubblicità? Oh! No, non lo so, non conosco l'amaro, domani mi documenterò meglio. Allora, sempre con Alzamantes, ecco di pagine, le 22:25, però Blue Time Live ha deciso di continuare, visto che la programmazione di Rock Wave è imperfetta questa sera, nel senso che manca l'Alberto Prisco, nonché direttore artistico, chi ha... diciamo avuto l'onore e il piacere di scegliere anche Alzamantes come protagonisti di questa serata, quindi andremo avanti un po' di più visto che la scaletta è ancora densissima di pezzi da ascoltare. Sì, dormiremo qua. Ecco, benissimo, allora mentre Maurizio va a preparare le brandine, gli Alzamantes ci propongono cosa? È una curenta, che è il primo brano italiano che suoniamo. Sì. Occita. Sì, è una curenta della Val Varaita. Dov'è la Val Varaita? In Piemonte. E la curenta è presente in diverse valli lì e ogni valle ha la sua curenta con una piccola particolarità. Sono più o meno in base tutte simili. Poi noi suoniamo una curenta della Val Varaita. Ok. Quindi benissimo. Una danza occitana. Eccola qua. We'll be right back. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Se lo sapevamo prima di questa serata avremmo invitato amici, parenti, conoscenti, esatto. Tutti per ballare dove si può, perché qua lo studio non è grandissimo, però diciamo che la compagnia faceva sicuramente un effetto più, dava un colore in più, però siamo in radio e di colori non possiamo che parlarne, però la musica è arrivata nelle vostre case ben forte con gli Alzamantes e questa è una curenta, come una curenta si della Valle o curento. Curento, non si sa bene, sì, come ecco, si comunque ed sempre è una danza che imparano tutti perché serve per presentarsi, no? Cioè tutta sì. Una prima parte dove si balla con un partner solo e poi la cosa divertente che è il ballet, che è la seconda parte della danza. Ci si stacca dal proprio partner e a seconda di quanti giri è, si balla con diverse persone. Anche quindi, questa è una se danza. Avete notato? Sì, prego. La maggior parte delle danze servono in un modo o nell'altro per cuccare. Per quagliare. Sì. Esatto, per quagliare. Ma un'altra cosa, visto che prima chiedevate a Stefano come si fa e a Maddalena come si fa a dare il là, forse non avete notato che esiste il gesto supremo e inappellabile? Che è l'alzata della gambetta da parte di Maddalena. Sì. Se alza la gambetta, il giro è l'ultimo della canzone, si finisce lì, punto. Sì. Quello è assolutamente inappellabile. Una volta mi è partita una ballerina per fare una cosa così, è finita tra una scarpa ed è finita tra i ballerini. Diciamo che la ballerina come scarpa pesa qualche grammo, la ballerina come persona pesa un po' di più e potrebbe fare più danni. Ecco, poi dipende dalla stanza. Allora, salutiamo tutte le ballerine, i ballerini in ascolto, ciao. Quelli che amano il folk, e salutiamo anche la Valle Varaita. Che è stata nominata, che allora mi sono documentato, una valle che si trova in provincia di Cuneo, quindi diciamo in odor di Francia, e quindi è per quello che la danza occitana è arrivata fino dalle parti di Cuneo, dove apprezzatissimi sono anche i cuneesi, non come abitanti ma come cioccolatini. E la bagna cauda, non dimentichiamo sì, la bagna cauda. E la bagna cauda, certo. E ricordiamo che come valle, per chi non la conoscesse, si trova proprio dove sorge il nostro beneamatissimo fiume Po. Esatto, ma l'occitana, danza occitana, ma era stata sdoganata da altra gente prima, vi ricordate i Mardi Gras, eccetera. Sono stati loro i primi che hanno portato un po' di, esattamente, un po' di movimento anche da queste parti, sì, praticamente. Sì, non era proprio sconosciuta, però chiaramente adesso, grazie a voi, anche si sta sviluppando un discorso. Però in Italia era un po' difficile che riuscisse a penetrare. Ah sì, soprattutto se vai nelle zone dove si balla meno, perché comunque al nord si balla parecchio, sì, però esatto. Già se vai, non so, nella mia zona, nelle Marche, tu dici, non so, si balla meno, dicono, si balla meno, si balla meno, molto meno. Sì. Benissimo, allora Alzamantes, non solamente musica da ascoltare, ma musica da ballare e in certe occasioni anche musica da vedere quando vi proponete al vostro pubblico. Per chi non vi ha mai visto, per chi non potrà venire a vedervi se non arrivate proprio sotto casa sua, c'è una maniera per osservarvi all'opera. Mi sembra che ci siano diversi filmati anche proposti su YouTube. C'è il caro vecchio YouTube. Sì. Esatto. ma anche sul nostro sito c'è il rimando alla pagina YouTube con i video diciamo più rappresentativi dei nostri spettacoli. Ecco, al momento sono video ancora amatoriali, ma piano piano ci stiamo organizzando per avere anche una sezione video, certo. In HD. Noi abbiamo parlato di musica occitana, quindi musica francese, di musica bretone, sempre francese, di musica irlandese, scozzese, però nel vostro panorama musicale c'è anche spazio per tamurliate, sì. Varie c'è anche tanto di italiano. Tarante, così messe in pista per far ballare e soprattutto per dare anche onore a quello che è il folk tradizionale italiano. Sì, beh, poi c'è da dire che negli ultimi anni la musica del sud soprattutto sta avendo parecchio successo anche qui al nord, ci sono tanti corsi sia di ballo che di strumento e questo è bello. Ci sono anche dei corsi di strumento? Sì, ci sono... ci sono magari persone che insegnano a suonare il tamburello per la danza, perché comunque è lo strumento fondamentale, se non c'è il tamburello non, cioè, non è tamburi- esattamente, non è musica salentina, assolutamente tamburello. La tamuriata. E quindi domani questo. Ricordati Maurizio di iscriverti a un corso per di il tamburello. Pizzica e sì. Tamuriata. Di pizzica e di tamuriata. Poi vieni a suonare con noi. Sì. Avete trovato quello giusto, assolutamente. Io mi ricordo la tamuriata con la nuova compagnia di canto popolare. Bravissimo. Molti anni Eugenio fa. Bennato insegna. Benissimo. Tra le altre cose. Bravo. Bene, siete preparatissimi. Sì. Abbiamo una certa età, cosa vuoi fare? Sì, per ecco. Quello. Beh, io, non lui, lui un po' meno. Sì, io un po' meno, comunque ci vado a ruota. Ecco, insomma. Esattamente. Ok, allora, dopo la curenta, ancora un brano da CD. Questa volta ci ascoltiamo Portoghese, eccolo qua. Allora, Portoghese dal CD player di Blu Radio Veneto, eccolo qua. Vendrá para el culto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Alzamantes, ascoltati con questa canzone, si intitola Portoghese, questa ballata con la canzone interamente cantata in lingua spagnola e con dei riferimenti importanti anche nel vostro libricino, carissimi Alzamantes, perché parlate sia di ospiti sia di autori di questo pezzo. Sì. Oltre a voi vengono citati Violeta Parra, Inti di Mani, sì. E diciamo le canzoni tradizionali boliviane. Esatto, perché la prima parte più lenta è una poesia di Violeta Parra, Rurun Sefue, sì. E poi la canzone di San Benito degli Inti di Mani messi insieme creano una danza. Sì, anche se Inti di Mani e Violeta Parra vengono da altre parti rispetto alla Bolivia, quindi loro sono cileni. Se non vado errato, ricordiamo anche Violeta Parra, che è stata autrice di quella bellissima canzone che si intitola Gracias a la vida, no? Che poi è stata ripresa da John Baez. Sì, che poi è stata ripresa da John Baez e poi è diventata anche un canto di chiesa. Sì, esattamente. Sì. Benissimo. Allora, Portoghese, come mai avete scelto questo, questo miscuglio tra una canzone delicata come quella che poteva essere la Violeta Parra e una canzone un po' da combattimento come poteva essere quella degli Inti di Mani? Allora, in realtà abbiamo preso ispirazione dal riarrangiamento per questa danza che ha fatto un gruppo al quale noi ci siamo ispirato, che sono gli Yentu, che è un altro gruppo di danze popolari che insomma è stato un po', come dire, aiutami, un esempio per alcune cose. Quindi in realtà ci siamo rifatti una loro idea e l'intro più lento serve ai ballerini per mettersi a posto, perché poi quando diventa veloce è una danza difficile di incastro e se uno sbaglia sbagliano tutti. Sì, perché è proprio tosta, è veloce di incastri. Ci sono due cerchi, uno maschile e uno femminile, che girano intrecciandosi in sensi opposti. E ci si pesta i piedi, si cade per terra. Cose così. Interessante, sì. Ci si fa male. No. E poi vabbè, già che ci siamo, abbiamo anche due ospiti in questa canzone, perché noi il flauto traverso non ce l'abbiamo, quindi abbiamo chiesto a Jacopo, che sarebbe poi mio fratello, di suonare il flauto traverso nell'introduzione, e al maestro di Stefano, che suona le percussioni, si chiama Oscar Trabucchi. Sì. Benissimo, salutiamo anche Ciao. Jacopo e Oscar. Ci siamo dimenticati di qualcuno, perché stiamo quasi terminando la trasmissione. Beh. Quindi vorrei salutarli tutti a questo punto, compresa anche l'associazione culturale Libero Contatto, che è la nostra associazione, che è il, diciamo, il vostro punto da dove lanciate il CD, quella associazione dove confluiscono tutte le idee per dare luogo a questa emanazione di folk. Esattamente, l'associazione ha prodotto poi di fatto questo disco e volevo infatti anche soffermarmi un momento e ringraziare le due persone che sono stati il punto di riferimento per la realizzazione tecnica del CD, e sono Ale Caneva dello studio Mob Sound per quanto riguarda la registrazione, il mixaggio, e Mauro Scarfia della Rosewood Basement Production di San Donato Milanese per quanto riguarda mixaggio e mastering. Quindi ricordiamo anche il sito internet dove potete attingere ancora maggiori informazioni riguardo il gruppo di Alzamantes, ovvero tutte le cose che noi non siamo riusciti a dire in quasi due ore di diretta. E tutto il calendario. Sì, è tutto il calendario, vogliamo dire. Calendario molto fitto. Lo facciamo leggere, sì, in effetti me ne sono accorto anch'io, avevo perso, ho detto ma dove c'è scritto che stasera sono a Blu Radio Veneto? E poi invece ho visto il trafiletto anche dedicato alla nostra radio, per questo vi ringraziamo. Del tipo che non faremo le vacanze per tornare al discorso le fidanzate le va per tornare al discorso le fidanzate di Andrea e Ale ci uccideranno, ma ciao così, ciao Federica, ciao Lidia. Benissimo, salutiamo anche noi le fidanzate, loro sono qui con noi, non preoccupatevi. Dove? Dove? Ecco qui a Blu Radio Veneto, e non c'è nessun altro oltre Alzamantes e due conduttori. Allora, per salutarci ci sono ancora due brani live che vogliamo ad ascoltare. Sì. E per arrivare fino alle 23 ascoltando della buonissima musica. Flavio, sì. Maddalena voleva citare quel concerto che avete fatto a Milano. Sì. Abbiamo avuto l'opportunità di suonare a Milano, praticamente in Piazza del Duomo, grazie a un'iniziativa del comune, ma in realtà è una piattaforma europea, dicevi. Sì. Un portale, si chiama Strada Aperta, e c'è la possibilità di iscriversi, di proporre un progetto, e il comune ti dà a disposizione un orario e un posto per suonare, ed è stata un'esperienza proprio bella, perché suoni in centro a Milano quasi in acustico con la gente che passa. Abbiamo richiamato anche un centinaio di ballerini che è venuto a ballare, la gente si fermava e ha visto questo tipo di spettacolo che magari in caso contrario non avrebbe mai visto. Benissimo, quindi abbiamo ricordato una specie di busker, si può dire, no? questa musica suonata per strada all'aperto, diciamo concordata solo col comune ma non concordata con i passanti, diciamo, no, esatto. Quelli che passano di là, dicono ma cosa sta succedendo? Sì. E poi naturalmente dovevano ritornare a casa a una certa ora e hanno chiamato dicendo, inventandosi un impegno o un ingorgo come quelli che fate quando suonate. Grazie. No, senso buono, ingorghi, oh, sì. Ingorghi di gente. Allora, due pezzi dal vivo abbiamo detto, sì, per concludere la serata. Quindi il primo pezzo è una giga irlandese. Eccola, sì, qua con gli Alzamantes a Blu Radio Veneto. 1, 2, 3 qua. Shipping out. Fire, fire, water. up the top, sir. I've lost my leg. I'm a sealer man. I'm a lost my leg. I'm climbing up the top, sir. I've lost my leg. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Una grande avventura quella di questa sera assieme agli Alzamantes. Ecco di pagine il titolo del loro CD, il loro primo CD, ma assolutamente segno di un'esperienza musicale già importante. In principio poi, come ricordava Dario e Maddalena, c'erano anche dei demo prima per diciamo assaggiare un po' quello che poteva essere lo spazio dedicato anche al disco. Allora, questa che abbiamo ascoltato adesso è una giga irlandese che viene interpretata anche in varie maniere, quindi un po' sistemata diciamo all'italiana, perché so che si balla anche da queste parti e so anche che l'uomo in questo ballo fa un po' la parte del leone, nel senso che lui balla con due donne, un uomo solo con due donne. Ma in realtà questa versione di giga irlandese vede quattro coppie, sono quattro donne di fronte a quattro uomini e la struttura della danza si ripete quattro volte uguale in modo che tutti possano fare la stessa cosa. Quindi cioè per le pari opportunità, sì. Esatto. Sono le quote rosa nella giga, infatti. Sono più le danze italiane, soprattutto dell'Emilia Romagna, che vedono l'uomo marpione che fa il balletto intorno alla dama. E poi adesso che si avvicina l'estate ancora di più, diciamo, ricordiamo i bagnini stile anni 60-70, il disastro che combinavano in spiaggia. Vabbè, allora, Alzamantes, ecco di pagine, abbiamo ospitati in questa serata per la presentazione di questo loro nuovo CD. Ricordiamo, per entrare in contatto con loro basta visitare il sito www.alzamantes.com. Loro sono presenti anche su Facebook, su Twitter anche, sì, avete sì. il vostro recapito, per cui abbiamo dato tutte le coordinate e abbiamo cercato nella nostra radiofonicità, a dare una finestra per conoscere meglio la musica degli Alzamantes, per riascoltare questa trasmissione. Vi ricordo, andate tra qualche giorno al nostro sito www.bluradioveneto.it e all'interno della pagina riservata alla pubblicità della trasmissione di questa sera e delle coordinate di Alzamantes potete anche cliccare su ascolta la registrazione e potete anche vedervi, forse non ve l'ho mai detto, anche alcune foto scattate in questa serata dove si vedono gli Alzamantes in azione. Foto verranno selezionate, si spera. Sì, sì. Secondo me sono imbarazzanti. Assolutamente selezionate, diciamo che Maurizio ne scatta circa un trecentinaio, si può dire. Bene. Così, ecco, e poi naturalmente ne sono scartate circa 270 sì, e le altre sono 30. Naturalmente è una battuta, inserirle tutte sarebbe... Mica tanto una battuta non propriamente lontana dalla realtà, francamente. Maurizio sempre molto umile, sai. Ok, allora noi ringraziamo, anche perché sono le 22.57, noi ringraziamo... È volato il tempo. È volato, sì sì sì sì, infatti non me ne sono accorto, gli avvoltoi sono arrivati. Riferito appunto alla canzone che abbiamo sentito prima, il cantico degli avvoltoi, appunto all'interno di Eco di Pagine degli Alzamantes. E allora noi salutiamo Maddalena, ciao, grazie. E salutiamo anche Dario, grazie, che grazie a voi per averci dedicato una trasmissione intera. Sì. Benissimo, poi siamo qui per questo, noi, no? A noi piace diciamo fare ascoltare sempre musica nuova e musica alternativa rispetto a quello delle programmazioni, diciamo, tra virgolette, classico, tradizionali. Sì, poi ancora Stefano al cajon. Ciao. Buon ritorno alla batteria, non solo a casa. Ecco, poi ancora Andrea alla chitarra. Ciao, ciao mamma, ciao papà, ciao, ciao, vi voglio bene. Benissimo, ciao, grazie. E ancora un ciao e un arrivederci a Alessandro. È stato un piacere. Io ho anticipato lo sciopero, sì, del primo maggio, la, sì, festa, non suonando. Non suonando, benissimo. Ecco, ricordiamo un grande appuntamento per domani, visto che siamo in maggio, che c'è quel grande concerto. Domani con siamo sacco a... di artisti. No, ma non il nostro, quello a Roma. Ah, pensavo il nostro. Sì. Domani siete a suonare dove? A Seregno, a Casa Malasangre. Purtroppo da queste parti non capitiamo molto. Comunque se qualcuno dei manager di qualche locale ha avuto modo di ascoltare, o anche di feste di piazza, assolutamente gli Alzamantes sono a vostra disposizione, ammesso che ci sia uno spazio libero, perché ho visto appunto, come si ricordava prima, un calendario molto fitto, densissimo di impegni. Allora, grazie ancora, tornate al vostro paese, portate i saluti anche a tutti i vostri collaboratori, e Alzamantes, quindi grazie e felice grazie rientro. Allora, noi vi lasciamo ancora i microfoni aperti, vogliamo presentare prima di salutarci l'ultima canzone, perché merita di avere un breve cappellino anche questa canzone. Vai Andrea. È una canzone che si chiama Ye Jacobites by Name, sì, ed è una canzone di protesta. Riguardante appunto la rivolta contro i giacobiti nel 1700 in Scozia. C'è benissimo, tutta una questione religiosa dietro, tra protestanti e cattolici, insomma, casino. problemi che adesso sono un po', sì, passati. Allora noi lasciamo i microfoni aperti agli Alzamantes per questa loro ultima canzone, e prima noi passiamo ai saluti. Grazie ancora, ciao ragazzi. Grazie a voi. Da parte, ciao, di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara è proprio tutto, quindi buona serata ancora e buona continuazione d'ascolto con gli Alzamantes adesso e poi naturalmente con la programmazione di Rock Wave fino alle 24. Grazie ancora, buona serata, ciao, ciao. Ye Jacobites by name, London here, London here. Ye Jacobites by name, London here. You Jacobites by name, your faults I will proclaim. Your doctrine I'm on blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrine I'm on blame, you shall hear. You Jacobites by name, London here, London here. You Jacobites by name, London here. You Jacobites by name, your foes I will proclaim. Your doctrine I'm on blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrine I'm on blame, you shall hear. What is right and what is wrong, by the law. What is right and what is wrong, by the law. What is right and what is wrong, awake and arm a strong. A sure sword and a lamb, for to draw, for to draw. A sure song and a love for to You're Jacobites by name, Landoneer, Landoneer. You're Jacobites by name, Landoneer. You're Jacobites by name, your faults I will proclaim. Your doctrine I won't blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrine I won't blame, you shall hear. What makes a right strive? Fame the far, fame the far. What makes a right strive? Fame the far. What makes a right strive to wet the assassin's knife, or haunt a parent's life with bloody war, with bloody war, or haunt a parent's life with bloody war? You Jacobites by name, Lendoneer, Lendoneer. You Jacobites by name, Lendoneer. You Jacobites by name, your fools will proclaim. Your doctrine I won't blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrine I won't blame, you shall hear. Don't let your schemes alone in the state, in the state. Don't let your schemes alone in the state. So let your schemes alone through the rising sun, and leave a man undone to his fate, to his fate. And leave a man undone to his fate. Ye Jacobites by name, Lendoneer, Lendoneer. You Jacobites by name, Lendoneer. You Jacobites by name, your fools will proclaim. Your doctrine I won't blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrine I won't blame, you shall hear. Jacobites by name, Lendoneer, Lendoneer. You Jacobites by name, Lendoneer. You Jacobites by name, your foes I will proclaim. Your doctrine I won't blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrine I won't blame, you shall hear. Your doctrine I won't blame, you shall hear. Blue time. Blue time. Blue time. Blue time.